Jazz e dintorni. Viaggi dentro la musica, percorsi e proposti da Stefano. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Sono Stefano, ancora per un'altra puntata di Jazz e dintorni e ben trovati nel 2010. Una nuova stagione si apre davanti a noi, ma sempre con buona musica, almeno questa è la mia intenzione. E speriamo che anche stasera sarà caratterizzata da questi aspetti di buona musica, che è sempre l'elemento principale per quanto riguarda almeno le proposte che vogliamo fare. Stasera non sono solo, sono in buona compagnia, ci sono ben due ospiti qui. Ci sono un giovane ospite che si chiama Beatrice, non sappiamo se si farà vivo, ma c'è. E l'altro graditissimo ospite invece è Roberto. Un signor, che Roberto, che vi saluto, è appena sbarcato a Bruxelles dopo una lunga lontananza, per ritrovare amico Stefano e questa voce misteriosa che possiamo... Chissà se riusciremo a sentirla. Possiamo dire come si chiama, Stefano? Beatrice, sì, lo possiamo dire, vedremo. Comunque, la puntata di questa sera a cosa l'abbiamo dedicata? In fondo siamo all'Epifania. Sì, siamo all'Epifania, viva la Befana e viva i cartoni animati. E quindi cerchiamo di trovare questo connubio fra jazz e cartoni animati. Sarà possibile questo? Che dici, Roberto? Riusciremo a trovare qualcosa? C'è una svariata, direi immensa, discografia e come si dice, cartografia, non credo, ma che può portarci, accompagnarci in un viaggio che sicuramente tu avrai orchestrato e architettato nel migliore dei modi, ne sono certo. Beh, speriamo di fare questa navigazione attraverso i cartoni e fare un regalo a tutti i bambini, i ragazzi, i giovani e gli amanti dei cartoni animati, perché poi non è che dobbiamo pensare che i cartoni sono necessariamente per i bambini, anzi direi che gli ultimi cartoni sono anche per i grandi. E forse il primo pezzo scelto è un po' significativo in questa doppia lettura dei cartoni che possono essere visti dai grandi e dai piccini. Di chi parliamo? Linus e Lucy, in questo caso il pezzo in realtà sono i Peanuts, i famosi Peanuts. In Italia conosciuti come Linus dalla rivista. Mica sono Peanuts. No, non sono Peanuts, lo sentiremo anche in questo pezzo, perché in realtà la musica dei Peanuts era composta sempre da un grande jazzista che si chiama Vince Guaraldi è purtroppo scomparso nel 1976, era nato nel 1928 e era un jazzista di origine italiano, un italo-americano. Ne troveremo altri durante la puntata di oggi, vedremo che sono molto impegnati in questo e anche con degli ottimi... Era un compà! Era? Era un compà, come direbbero gli americani. Sì, senz'altro che ha avuto grande successo. Adesso lo sentiamo in questo tema che immediatamente riconoscerete, almeno per quelli che hanno visto i cartoni dei Peanuts, e il tema principale si intitola Linus e Lucy, che sono due dei personaggi. Ma adesso sentiamo la musica, abbiamo parlato direi abbastanza. Linus e Lucy, Vince Guaraldi Trio. Thank you. Vince Guaraldi con Linus e Lucy, bellissimo pezzo per iniziare questa puntata dedicata a jazz e cartoni. Vi ricordo che siamo a Jazz e Dintorni, sono Stefano, siamo su Radio Alma e oggi parleremo appunto di questa unione fra musica jazz e personaggi, puntate e quanto altro legato ai cartoni. Linus e Lucy era questo primo pezzo, non è l'unico che sentiremo dei Peanuts, però ora fermiamoci qui, tutti sapranno chi erano Linus e Lucy, sono due dei personaggi principali di questa famosa serie di Schultz. Schultz era l'autore. Ma adesso facciamo un po' un salto per passare a degli altri cartoni che sono fra i più famosi e i più seguiti di questo periodo. E parliamo dei Simpsons. I Simpsons. I Simpsons non potevano mancare, naturalmente. È una garanzia. È una garanzia. È una delle caratteristiche dei Simpsons. Marco di fabbrica, scusa. Sì, che continua ad andare molto bene, direi, per me, per la televisione Fox, che è la televisione che li produce e li trasmette. Ah, vecchi volponi. In molte serie di Simpsons compaiono musicisti famosi che prestano la loro voce o talvolta anche i loro personaggi. Ne sono stati tantissimi, Barry White, Michael Jackson, ma ci sono anche dei jazzisti. In questo, il pezzo che abbiamo scelto è un breve pezzo, un piccolo cameo potremmo dire, di Tony Bennett. Ecco qui Tony Bennett, troviamo un altro italo-americano molto importante, in questo caso sì, di origine italiana, cantante, un crooner tra i più famosi, nato nel 1926 e ancora attivo, direi, con grandi cose. Anche lui è appunto, ha partecipato a queste così divertissement della serie dei Simpson, e in questo caso il pezzetto che abbiamo scelto si intitola Capital City e parla di questa città immaginaria. Sentiranno anche le voci di alcuni dei personaggi dei Simpsons tra i più importanti. Stefano, direi che i Simpson lo hanno contagiato a Tony Bennett. Beh, adesso sì, perché si è lasciato portare in questa atmosfera molto divertente. Chi ha visto Simpson sa che sono una serie, anche questa, ricca di molti doppi sensi, ma non doppi sensi di cattivo gusto, quanto di chiave di lettura. Adesso sentiamo Capital City, Tony Bennett, in questa serie Simpsons. Well, kids, there it is, Capital City! There's a swinging town I know called Capital City. People stop and scream hello in Capital City. It's the kind of place that makes a bum feel like a king, and it makes a king feel like some nutty cuckoo super king. Look, it's Tony Bennett! Hey, good to see you. It's against the law to frown in Capital City. You'll caper like a stupid clown when you chance to see 4th Street MD, yeah. Once you get a whiff of it, you'll never want to roam from Capital City, my home sweet, yeah. Capital City, that happy tall city. It's Capital City, my home sweet, swinging home. Tony Bennett, questa straordinaria esecuzione di Capital City, che fa un po' così il verso a New York, no? Questo fa pensare, non so, almeno come atmosfera. E qui volevo un attimo chiedere per i personaggi che si sono sentiti anche in questo pezzetto a Beatrice, che è l'esperta qui da noi se ci vuole illuminare su alcuni dei personaggi, perché io effettivamente ne so un po' poco. Bart, chi sono i personaggi dei Simpsons, i principali? Beh, all'inizio abbiamo sentito Homer, che ha infatti introdotto il cantante. E poi chi è Homer, scusami? Homer è il padre della famiglia, perché i Simpson sono una famiglia, e c'è Homer che è il padre, Marge la moglie, che anche lei si è sentita nel brano, e i loro tre figli, Bart che è l'unico maschio e il più grande. La parentesi su Bart, scusami ti interrompo, ho letto che si chiama Bart perché è un cambio di lettera con Brat. Sì, e che significa Brat? Beh, monello, insomma, che fa sempre qualcosa di che non dovrebbe fare, insomma. Ah, ecco, infatti è uno dei personaggi principali, credo, no? Sì, sì. E poi ci sono anche le due sorelle, Lisa, che per l'appunto è una appassionata del sassofono. E quindi anche qui ritorniamo nell'ambito jazzistico, perché poi compare. Sì, sì, infatti Homer invece molto spesso non apprezza la sua musica, e allora Lisa si arrabbia perché dice che il padre non ha la sensibilità di apprezzare il jazz. Ah, ecco, e c'è anche un modo strano di chiamare il sassofono, vero? Sì, infatti non pronuncia bene la parola, lo chiama saxophone. Sì, esatto. Invece di saxophone. Giochi di parole che vengono spesso utilizzati anche in questa serie. Direi che, visto che abbiamo descritto, grazie per tutta questa descrizione dei personaggi, e possiamo anche sentire un altro pezzo sui Simpsons che è molto jazzato. C'è molta musica nei Simpsons. Questo pezzo che ho scelto è un pezzo che talvolta viene utilizzato per i titoli di coda dei vari cartoni, ed è una versione fatta con un quartetto jazz, e appunto viene suonato il tema principale dei Simpsons, che chi li vede normalmente riconoscerà immediatamente questo tema. Quindi i Simpsons nella versione con quartetto jazz. Saxophone already. Ecco, un brevissimo pezzo, però molto simpatico, e in cui appunto abbiamo sentito come Homer chiama il saxophone, lamentandosi con Lisa, che in questo caso lo stava probabilmente suonando. Ecco, possiamo immaginare un po' il cartone come si svolge. Bene, passiamo ad un altro personaggio più vecchio dei Simpsons, senz'altro, è uno dei grandi eroi di Marvel, che poi ha avuto anche grande successo sui schermi cinematografici. Parliamo di Batman. Batman, che ti fa pensare Batman, Roberto? È un eroe positivo. Pensa positivo e pensi a Batman. Sì, però anche se si svolge sempre un po' degli eroi scuri, no? Perché e anche quello effettivamente è un tratto chiaroscuro, sì, effettivamente anch'io mentre lo stavi commentando mi veniva questo in mente questo. Sì. Però è un personaggio positivo, eh? Sì, sì, senz'altro, un salvatore. Proprio come i supereroi, perché poi quelli della Marvel erano tutti supereroi, ne incontreremo qualcun altro, adesso non lo anticipiamo, però Batman è sicuramente uno dei... Un oscuro guizzante, sì, fatto anche con tanti altri oggetti interessanti come la Batmobile e tante altre cose che sono state poi riprese. La versione che sentiamo è una versione jazzata del tema di Batman, ed è una versione di un jazzista italiano che si chiama Massimo Farao, personaggio molto conosciuto anche all'estero, forse più che in Italia. Infatti questo disco da cui è tratto questo pezzo, che si titola Jazz in Cartoons, è un disco inciso a Taiwan, quindi in Giappone, scusatemi, per il mercato appunto giapponese, ed è inciso con un trio, quindi sentirete questo tema di Batman molto famoso in una versione particolare, sicuramente molto godibile. Batman Theme, Massimo Farao Trio. Immediatamente riconoscibile senz'altro questo tema, anche se è fatto in questa maniera così particolare con questo trio di Massimo Serà. E ancora proseguiamo nella nostra carrellata di jazz e cartoni. L'idea di questa sera di Jazz e Dintorni è proprio presentare questo tipo di legame più o meno diretto. Nel prossimo artista, musicista scelto, questo legame è un po' più indiretto, perché parliamo di Isaac Hayes. Isaac Hayes in realtà è legato ai cartoni animati perché tra le sue attività, oltre ad essere un grande musicista, è stato anche un ottimo doppiatore, ha dato la voce anche a dei cartoni. In particolare era la figura di Chef nel cartone South Park. Dico era perché purtroppo Isaac Hayes è deceduto nel 2008, quindi da poco, e tutti lo ricordano per un pezzo che a me piace tantissimo, che è il motivo per cui ve lo presento oggi. È un pezzo di legato a un film, in questo caso famosissimo, che è Shaft e i mercanti di schiavi. Te lo ricordi, Roberto? Bellissimo. Sì, hai visto che annuivo mentre sì guardavi, sì sì, infatti questo mi ha chiamato in causa. E questo tema è sicuramente un pezzo riuscitissimo, con delle soluzioni musicali dentro estremamente interessanti e che continuano, almeno nel mio orecchio, a non invecchiare. Quindi ve lo volevo presentare, anche se un po' più indirettamente legato al jazz e indirettamente legato ai cartoni, però secondo me vale sempre la pena riascoltare questo tema di Shaft, Isaac Hayes. Inconfondibile quella di Isaac Hayes in questo Shaft, film che ha lasciato il segno e viene definito con questa blaxploitation, un periodo in cui c'erano storie legate ai neri e anche al periodo di lotta da parte del popolo nero. Torniamo agli anni 70 e quante cose. Sì. Periodo di grandi cambiamenti sociali, senz'altro, oltre che musicali. O anche cambiamenti nostri, Stefano, ricordo. Vabbè, ma quello noi non portiamo mai il nostro bagaglio personale. No. Però i nostri gusti sì, quelli allarghiamo sempre. Quelli li portiamo tutti. E quindi per questo volevamo farvi risentire questo bellissimo pezzo che rimane in sottofondo, perché con queste chitarre molto tirate. Comunque, proseguiamo con il nostro programma, ma prima abbiamo un breve inserto di pubblicità. Buon Natale. Feliz Navidad. Buon Natale. Cala Cristoiana. Alegrando a toda mi America. Buon Natale. Calesio Ortez. Saludando aquí, saludando allá. Buon Natale. Feliz Natal. Auguri. Y buon anno nuovo. Buon Natale. Prospero Año Nuevo. Feliz Navidad. Prospero Año Nuevo. Feliz Navidad. Joyeux Noël y Bon Ami. Prospero Año Nuevo. Un feliz Año Nuevo. Próspero Año Nuevo. Joyeux Noël y Bon Ami. ¡Feliz Navidad! ¡Joyeux Noël y Bon Ami! ¡Joyeux Noël y Bon Ami! Sì, ormai il Natale è un ricordo. Però... Dì la verità, Stefano, questa è Radio Alma Latina. Vabbè, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Questo che quello che anima in profondo tutta la radio è proprio questa natura latina. E noi la ribadiamo tutta e anche approfittiamo di nuovo per dare anche noi il nostro augurio di questo 2010 che sia sereno e prospero e che ci porti tanta soddisfazione e anche tanta musica. Noi speriamo di portarvi in dono come i Re Magi, no? Che domani dovrebbero arrivare. Vediamo, andiamo avanti però con il nostro programma dedicato ai cartoni animati. Adesso affrontiamo Hanna e Barbera. Chi sono Hanna e Barbera? Sono due grandi produttori di cartoni animati e fra i personaggi, tantissimi personaggi resi famosi da questi due autori, vi sono dei personaggi che si basano sul passato. Ti viene in mente chi possono essere, Beatrice, questi personaggi che così sono legati a un passato molto remoto? Magari i Flintstone? Sono i Flintstones, un'altra famiglia rispetto ai Simpsons. Chi sono i Flintstones? Te lo ricordi? Beh, una famiglia di uomini delle caverne. Esattamente, uomini primitivi. I due personaggi principali sono Fred e Barney, due amici che non è che siano proprio un esempio di virtù. Grandi, sì, di virtù. Questo lo possiamo dire. Delle rispettive mogli, Vilma e Betty. Sì, che se non sbaglio li riprendono sempre, no? Purtroppo hanno ragione. Sono una delle scimette. Due, non mi ricordo, era lavorava di Mattarello, no? Se non mi ricordo male. Sì, soprattutto... La rossa a Betty. Betty. Sì. E poi c'era una. No, non è Betty? No, mi fa segno Beatrice, no. Che forse è Vilma. Mi sa che è Vilma. Era Vilma, no? Sì. No, allora Vilma. E Betty è quella Mora. Betty è quella Mora, benissimo. Abbiamo preso in castagna Stefano. Però c'è un'altra frase famosa che diceva Fred. Non era il mattarello, era Vilma, dammi la clava. Sì, no, ma lei usa il mattarello, però lui diceva. Vilma, dammi la clava. Vabbè, adesso facciamo sentire un attimo questa famosissima tema che è poi quello che segnava l'inizio dei cartoni animati sempre. È il tema principale dai Flintstone. From the town of Red Rock, there appears the man of his story. Let's ride with the family down the street, through the courtesy of friends to meet. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-doo time, a yabba-doo time. Questo era il tema principale dei Flintstones. La cosa divertente è che ha delle somiglianze con un pezzo classico. Non si sa se è ispirato, un po' scopiazzato. però ve lo proponiamo proprio per queste così similitudini. Il pezzo da cui è stato ispirato, diciamo, è un pezzo di Gershwin, quindi un altro grande autore classico, ma con molte caratteristiche anche molte caratteristiche anche jazzistiche. Dico classico, ma non preistorico. Ma non preistorico, no, dall'inizio del secolo. Di Flintstone. Sì. E il pezzo di Gershwin che potrebbe aver ispirato questo si chiama I Got Rhythm, è una delle canzoni, on the songs, molto famosi di Gershwin. Ecco, ve lo propongo in questa versione per piano. Ecco, solo un breve assaggio, mi sembrava interessante, però sempre per rimanere su Flintstones e vedere come possono cambiare moltissimo i pezzi a seconda di come vengono eseguiti e di quali sono anche i gruppi o anche il genere a cui appartengono, ho preparato un'altra versione di Meet the Flintstones che è stata utilizzata in un film, nel film che è stato realizzato appunto The Flintstones, e in questo caso il gruppo è i B-52, un gruppo molto, molto famoso, e sentite che cosa sono riusciti a fare di questo pezzo. Avete sentito? È piuttosto diverso. Che te ne pare, Roberto? Stai un po' dirazzando, Stefano. È vero, però stai uscendo un po' dal jazz. Non ci dimentichiamo che la trasmissione ti va jazz e dintorni. Quindi noi siamo nei dintorni. E quindi se ci deroghi, siamo arrivati. Se ci deroghi vuol dire che qualche volta potresti piazzare, per esempio, una puntata sul blues. Per esempio. Beh, questo conto su di te. Il blues appartiene al jazz in maniera... senza fare troppi sforzi, direi, quindi ne parleremo senz'altro. Avremo materiale per proporre ai nostri ascoltatori del buon blues. Bello assai questo pezzo, però molto movimentato e anche così ben legato al film come era stato realizzato. Ma adesso rientriamo un po' nei nostri ranghi, io direi, e ci rientriamo tornando indietro agli anni 70. Il 1970 è l'anno in cui è uscito il film da cui è tratta questa musica molto jazz, direi. Allora, Walt Disney negli anni 70 che film tira fuori? Un film legato ai gatti, ti fa pensare qualcosa, Beatrice? Sì, gli Aristogatti. Ah, gli Aristogatti. E perché si chiamano Aristogatti? Beh, molti lo sapranno, insomma, però così capiamo meglio, introduciamo meglio anche questo pezzo che abbiamo scelto. E perché saranno nobili, Stefano? Perché poi saranno nobili. Non tutti erano nobili però nel film. Non lo sappiamo. Chi è che era nobile? Romeo. Cioè, no. Romeo così. Non era nobile. Romeo non era nobile, invece di chi si innamora? Della gattina bianca. Che non a caso si chiama Duchessa. Ecco. E quindi ha dei modi ben diversi. Ed era molto divertente nella versione italiana perché Romeo parlava come? In quale dialetto? Lo ricordate? Romeo parlava un dialetto romano. E quindi sa Romeo è meglio del Colosseo. Io invece sto utilizzando il napoletano. Però non va bene in questo caso. E lì c'erano anche dei gattini che erano figli duchessa. E a un certo momento si mettono anche loro a cantare su un piano. Sono vari pezzi molto jazzati. Questo che ho scelto per voi si intitola non a caso, ha un titolo appunto direi significativo, ed è Everybody Wants to Be a Cat, e sentirete subito, farà entrare immediatamente in questa atmosfera di questo meraviglioso film di Walt Disney. Tra parentesi è l'ultimo prodotto a Walt Disney, perché proprio mentre era in produzione questo film, Walt Disney è morto nel 70. È un film riuscitissimo anche sul piano musicale. Everybody Wants to Be a Cat. Set music back to the caveman days. I've heard some corny birds who tried to sing. Still, a cat's the only. Everybody Wants to Be a Cat, dagli Aristogatti, un bellissimo unione fra idee musicali legate al jazz e idee invece legate ai cartoni, alla storia. Walt Disney è in questo è stato un grande genio, un grande mago, e anche il prossimo pezzo che abbiamo scelto, non a caso, è preso da un film di Walt Disney. In questo caso ci muoviamo nella giungla. Che cosa può essere, Beatrice? Il libro della giungla. Il libro della giungla, che chiaramente... chi l'ha scritto il libro della giungla? Chi l'ha scritto? Un inglese. Domandaccia, eh? Domandaccia, però noi siamo preparati. Rudyard Kipling. Ah, lo sai? Sì, io ci ho provato a mettere. No. Ah. Vedi, è scritto al tempo delle colonie, infatti ricorda molto questi aspetti. E appunto Walt Disney è stato ispirato moltissimo da questi libri scritti da Kipling, e infatti riprende molti dei personaggi, come Mowgli, che è il personaggio principale, che appunto questo ragazzo nato e cresciuto nella giungla, che fa vari incontri, fra cui incontra anche delle scimmie. No, come sono le scimmie nel film? Te lo ricordi, Beatrice? Beh, sono degli oranghi, no? Esattamente, sì. C'è il re del tempio, vivono tutti in un tempio abbandonato. Sì, esattamente. Questo pezzo che faremo ascoltare è proprio si svolge proprio in quel contesto, quando cominciano a ballare, e una delle scimmie, l'orango principale, dice I wanna be like you. Infatti questa è The Monkey Song, e la particolarità è che è eseguita e cantata da Louis Prima, un altro grande del jazz, meno conosciuto di Louis Armstrong, ma anche lui un grande cantante. Sentite, la voce è molto simile. Louis Prima, ancora una volta, di origine italiana, americana, di origine italiana. Vedete che abbiamo dato molto al jazz, abbiamo dato ai jazzisti americani come italiani. Purtroppo anche Luis prima è morto nel 78, era del 1910, e qui appunto aveva dato la sua voce per questo pezzo inserito nel film. Il film è del 1967 e il pezzo che vi dicevo adesso ascolteremo è I Wanna Be Like You, The Monkey Song. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You see it's true. An ape like me can learn to be human too. Allora, che te ne pari questa voce? No, bellissimo, bellissimo, però sai, stai lambendo molto gli anni 70, poi parli degli orangutanghi, parli dei monkey, mi viene pure in mente, non c'entra niente, forse lo c'entra pure, pensa a quella magnifica pezzo di Omir Deodato, Così parlò Zarathustra, che era la colonna sonora di Odissea 2001 nello spazio. Ah, certo, cioè, certo, quello rifatto, sì sì, pezzo rifatto da un pezzo da Strauss. Bellissimo. Pezzo Sprach Zarathustra. Esattamente. Anche questo forse prima o poi dobbiamo farlo ascoltare, perché forse non tutti i più giovani conoscono queste meravigliose arrangiamenti fatti da Emir Deodato, che continua a produrre della musica interessante, certamente non come il periodo degli anni 70 in cui era molto famoso, però continua a fare delle cose molto, molto interessanti. Bene, io il prossimo pezzo non vorrei dire a quale cartone si riferisce, perché sarebbe un'offesa per tutti gli ascoltatori. Volete dare qualche indicazione? Beh, recentemente è stato fatto un film con Steve Martin. Anche troppo, magari. Non è vero, dove è l'astuzia? Qua si sta dicendo un po' troppo. Abbiamo qui l'ispettore. C'è l'ispettore. È con noi, attenzione, con noi. È qui con noi. Mi sa che comincia a far partire, perché sennò sì, qui poi diciamo tutto. È lì, è là, è là. Più famosi, più utilizzati. Come si fa a non dimenticare il passo felpato dell'animale rosa che cammina durante i cartoni animati? Una cosa... Ma voi sapete bene perché che cos'era la Pantera Rosa nel primo film, ve lo ricordate? Assolutamente. L'ho cercata per anni, ci sono riuscito. Non l'hai trovato? No. Vedi. Questo ispettore non è molto efficiente. Questo maledetto gioiello che non si trovava, non trovavi nemmeno i ladri, non era, era una cosa di, era, e quel gioiello stava nella stonza, stava nella stonza. È andata così, questa geniale trovata di unire nella sigla iniziale del film una pantera rosa che si muoveva in maniera sinuosa con questa musica meravigliosa. Il doppio passo era una delle cose più belle. Henry Mancini, veramente. Geniale, è sicuramente stata poi utilizzata in molte altre occasioni e ha dato anche recentemente, appunto, come diceva Beatrice prima, in un film con Steve Martin. Chissà quante altre volte vedremo l'ispettore Clouseau, che gira, si aggira con dei personaggi sempre più interessanti. Ma il tempo corre e anche i cartoni corrono sempre, e forse è tempo di sentire un altro supereroe. Chi può essere un altro supereroe? Viene in mente qualcuno che lancia, che si muove da un palazzo all'altro lanciando delle ragnatele, che poi a un certo punto hanno ucciso, o no? Beh, no, perché continuano a fare film. Ah sì, quindi era una finzione. Era una finzione, storie d'amore varie. Era una finzione. Eccolo, adesso lo sentiamo nella versione di Michael Bublé. Spider-Man does whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes the Spider-Man. Watch out, Mr. Hyde. Michael Bublé con Spider-Man, che ha ispirato molti film, ma anche un po' di parodie. Sì, per esempio nei Simpson, di cui parlavamo prima, hanno fatto il film. Il film dei Simpson, e Homer cantava la canzone Spider Pig, Spider Pig, che aveva la stessa melodia di questa di Spider-Man. Sì, i cartoni spesso si rincorrono, si citano, si autocitano, e forse questo ci serve anche come introduzione per il prossimo di cartone, che non è solo un cartone, perché era in realtà, aveva dentro anche dei personaggi umani, e si intitolava Chi ha incastrato Roger Rabbit? Who Framed Roger Rabbit? Un grande successo di qualche anno fa, e anche qui ci sono tantissimi personaggi di cui dovremo parlare in questo film diretto da Robert Zemeckis. Robert Zemeckis mi fa subito pensare a Ritorno al Futuro, ma ha fatto anche altri grandi film, e prodotto questo Roger Rabbit dalla Disney nel 1988. Vari personaggi, uno dei personaggi più famosi sicuramente è la moglie del coniglio Rabbit, che non è un coniglio, non so se ve lo ricordate, ma è una bellissima figura. Una bellissima pin-up, potremmo dire, in questo caso. E senz'altro molto maliziosa sempre. E la sua battuta più famosa è proprio: io non sono cattiva, è che mi disegnano così. E per tutta la storia che adesso non vi possiamo raccontare. E il pezzo scelto dalla colonna sonora di Alan Silvestri è proprio questo pezzo, I'm not bad, I'm just drawn that way, che dà un po' un'idea di questo personaggio. Ma adesso ascoltiamo come è stato declinato in musica questo concetto molto divertente e molto interessante di Jessica Rabbit. Thank you. Beh, direi che rende bene quest'idea di pin-up irresistibile. Non so, non oso pensare come il gatto Romeo potrebbe definire la nostra coniglietta. Beh, sì, ma devo dire che anche Roger Rabbit ha i suoi problemi con una moglie, simile, a tenerla a bada con tutte le cose che combina. Chi non l'ha visto, che l'ha visto troppo tempo fa, sicuramente è un cartone da rivedere molto molto simpatico nell'unire il concetto dei cartoni con questo paese immaginario che è Cartonia, in questo caso, e tante cose che succedono fra uomini. Veramente il protagonista era Bob Hoskins, che faceva da ispettore nel film. Bene, passiamo all'ultimo pezzo, forse il penultimo, insomma diciamo l'ultimo vero e proprio, poi capirete perché dico vero e proprio, e riprendiamo quello che avevamo un po' presentato all'inizio. Mi piace chiudere ancora con Charlie Brown, capirete bene che mi piacciono molto i Peanuts, questo è uno dei motivi per cui continuo a così proporvi dei pezzi da questa serie di cartoni. In questo caso il pianista che segue questo tema, il tema si intitola Charlie Brown Thanksgiving, il pianista è un pianista importante che ha svolto, che ha inciso molto e anche in generi abbastanza diversi. Si chiama George Winston, è anche molto famoso per tutte le sue incursioni nell'ambito della New Age. Ma in questo caso è un pezzo molto jazzato, come voi sentirete, e anche molto ben riuscito. E Charlie Brown, Thanksgiving, George Winston. George Winston e Charlie Brown Thanksgiving era l'ultimo pezzo di oggi in questa puntata dedicata a jazz e cartoni. Chiuderemo con qualcosa che così chiudeva molti altri cartoni, lo riconoscerete poi quando ve lo metterò, però questo è il momento dei saluti con gli ospiti. Spero che vi siate divertiti anche voi con questa musica e grazie, con le spiegazioni. Grazie Stefano, grazie. Roberto, grazie per essere stato qui con noi. Grazie. Beatrice, grazie per tutte le informazioni sui cartoni. E naturalmente rimanete sintonizzati perché la trasmissione che seguirà è sicuramente interessante. Come al solito, Bruxellando qui in Mary D e Danny M sono già qui, quindi immediatamente pronti con l'anno nuovo a presentare tutte le attività culturali che potranno così aiutarvi a vivere meglio questa bella città che è Bruxelles. Adesso in chiusura, come vi dicevo, un pezzo, un Merry Melodies Closing Theme, molto breve, ma per salutarvi sempre in questo tono legato ai cartoni animati. A martedì prossimo da Stefano con Jazz e dintorni. Jazz e dintorni. Viaggi nella musica, percorsi e proposti da Stefano. Exactly what is it? Right now, I wanna make it clear. Impromptu's not, you'll be bending around for years. 21h.